macchiata grassa. L'aloe. E cosa fa questa cosa? L'aloe, Pumbo. L'aloe, bravo. Ci sei fatto. E quella fa... sai mangagliù. Fa del sale quella, sì, bravo. E ti togli anche addirittura le bruciature, non solo l'altro. In pratica con quella la rossa, con la tipa di tipi, se non ricordi quella che ha fatto le bruciature di quel tipo che ha avuto quell'incidente famoso, te lo ricordi? Ha usato la loro con una penna di coso, di picciole, le trasformava sopra le bruciature ed è guarito. E tu sai di cosa sto parlando. Che strano. Tanto vuoi controllare, eh? E allora proprio bruciato mi Milano in questa bizzona. Comunque l'aloe è una cosa che usano tutti adesso. Cioè tu guarda, c'è tutti con l'aloe. Tutti quanti aloe, aloe vera, eccetera, eccetera. È una pianta grassa che in pratica produce un liquido bianco, cioè un bianco, in pratica del colore dell'acqua, dopodiché basta sapere lavorare e ti fa di tutto, ti fa. Bruciature, quello che è. Chiede a chiunque, a lui è vera, ma sa chiedere. Tu adesso, guarda su internet e te ne rendi conto. Ma un mangaglio cosa fa questa cosa? Ti fa dizzare. E lei cosa deve pulirlo così tutto, devi spalmare vino e fa dizzare. Come è questa cosa? Io lo metti sopra, poi dopodiché cosa vuoi che ti dica io? Aspetti e spiri. Se si solleva è bene, se non si solleva al limite ti metti il clic come una macchina. Sì. Non ho più bisogno da noi, ho già. Grazie a Dio già sono a posto. Comunque guarda, non sto scherzando, L'aloe per le bruciature e altre cose è una cosa allucinante. C'è una tipa di tempio che lo fa, che lo spalma, perché a me me l'ha fatto, con una penna di piccione, lo sai come brucia, non te lo dico nulla, cazzo. Io ho sofferto quasi un mese scendendo tutti i giorni al tempio da questa qui per togliermi dalla psoriasi dal corpo, eppure quando rientravo a casa sai come rientravo, cazzo, tettero. Ogni giorno mi impagavo, cazzo, come si chiama, per farmi portare cose del genere. Comunque sia, l'aloe è una pianta che è miracolosa. E ce l'avevamo solamente noi in Sardegna e basta. A me fa bene anche al fegato. E cosa che mi fa? Te la devi mangiare. Ma schifo, Quello ti fa che la mano di Dio. E cosa devi fare? Te la devi mangiare. E allora? Sì, quello c'è dentro però all'interno, e non la Puglia, all'esterno. Quello c'è dentro, sì, fa bene al fegato, tante cose. È miracolosa veramente una pianta. È gelatinosa più che altro, bisogna sapere da fare, perché non è semplice da fare. E tu lo sai, Luca, se guardi i video, bisogna saperla fare, se no sei fottuto, non fa nulla. Però bisogna saperla fare, è gelatinosa, hai capito? Rimane come colore dell'acqua, rimane, sale uguale. Sì, lo so, io fuori la pianta. Ma poi ce n'è una grossa in campagna da padre di Marina. Ce l'ho pure io fuori, capito? Poi tu mi hai dato la blu, me la metto dentro le mutande, vediamo cosa ne esce. Marina di Vazzi, cosa sta succedendo? E ti immagini, ma se la metto dentro le mutande, Pupu, funziona. Le mutande, ma giovano dentro le mutande. Non sarei matto. Io so comunque che è così. E anche per le bruciature. nella bruciatura, già lo sai anche tu, c'è una persona che in pratica sta bene, che è tutta la viva, e in pratica è risumata, in teoria. Già lo sai anche tu, quello che aveva preso fuoco nella Formula 1, ti ricordi? L'aveva fatto una tipa di tempio, era sempre ringraziata, l'ha fatto con quella tipo di pianta, di bruciature, se no era stato molto sepolto lui, questa poco ma sicuro, gli ha guarito tutte le bruciature che aveva nel corpo, era sempre detto anche lui. Sì, sì, è miracolosa, sì, tipo al mare se ti bruci, ti metti l'aloe, sono calma dolore, cazzo sono calma, le punture delle zanzare, no, veramente è miracolosa, no, tanto è miracolosa veramente con la pianta. Ma no, possibile che fanno anche le creme? Che fanno? Le creme. Sì, Maria ce l'ha. Infatti quando io mi sono bruciato nelle gambe, io mi bruciavo prima lì, prima di bruciarmi tutta la schiena, il petto e quant'altro, e le braccia comunque. A me partono prima i piedi, quella è la prima cosa che parte, mi brucio. E un giorno ero tutta la magnazzona, mamma, tutti gli anni stanno a sprenare, ma ci credi tanto, ma un mese, insomma me l'ha calmato. E allora la compro. Cazzo, guarda, mi ha calmato un bel. Sì, e poi c'è l'altra, quella pasta, insomma, con la crema, come si chiama. Ho provato anche quella lì. Però è brutto, ti bruci, Adesso mi compro la protezione 50 io. Ci vado sabato al Conad, l'ha messa in offerta. Sì. Io devo prendere qualcosa, no, mamma mia, io mi brucio. Se vado al mare. Il bello che c'è travaglio, mamma mia. Roma sono più contento, ovviamente. Te ne ho pianto, certo, prima ti devi esercitare. E poi scaricarti il programma, non puoi andare solo con il karaoke, non va bene. Ci vuole anche quello MP3, perché se magari ti chiedono una canzone sassarese, tipo Aumento di Mamma, Lini Bondi, oppure La Prima Comunione, cose così, no? Ci vuole il lettore, cioè il karaoke che legge gli MP3. No, tutto devo fare tutto. Tutto completo. Qui mi sono scaricato, prova anche tu a scaricartelo. Cliccando. Aspetta. Cliccando si chiama, sì. No, canto player. E lo sai? Scaricato quello lì e mi legge gli MP3. Buono. Sì, sì, so che poi non puoi fare una playlist, capito? E puoi mettere una, poi quando vuoi mettere l'altra ti chiede la licenza. No, io non faccio tutto come deve essere fatto. Una cosa completa e boh voglio. Almeno sono tranquillo e c'ho tutto. Adesso controllo a vedere. Allora, licenza, canto. Vediamo tu Gurka, prezzi, vediamo, prezzo, esci a vedere, allora, non ce n'è prezzo, qui sta, ecco qua, aspetta. La questione più creata non è che sia a caso suo, allora, chi vuole fare il karaoke, deve andare in pratica a come si chiama? Per pagare le tasse, capito? Poi, chi sia che non sia, non gliene fotte nulla, a un certo punto. Loro pagano, hai capito? E sono a posto. Tanto non cantano, sempre, ogni giorno deve pagare quella cifra. Quindi, insomma, fa due giornate paga. Hai capito? Tutto lì il discorso. Così faceva l'amico, si faceva l'amico più che altro, hai capito? forse sa cantare o non sa cantare, no, non gliene fotte nulla, ci faceva il karaoke, eccetera, eccetera, e Nico pagava, hai capito la SIAE, il discorso è quello lì. Allora tu, allora, c'è quello versione standard, personali, senza limitazioni, però non uso professionale in pubblico, quello costa 45 euro, invece quello, aspetta, versione professionale, per uso professionale, lo puoi installare in 3 PC, aggiornamenti gratuiti per 3 anni, 65 euro più IVA. E poi lo va fatti da tutto. E allora, quello praticamente completo, ti carichi le basi che vuoi, quando sono MP3 ovviamente. Poi te le cerca, se quelli non te la apre, per esempio in Van Basco, no? Ma poi tutti, ci si vede la cosa, la cartella, uno proprio la cartella, li vedi, quelle che ti apre con Van Basco e quelle che ti apre con il Karaoke 5 o questo qua, il canto player. Caffa, ma chi si becce si buffa un cioè, non è quello il problema. Dopo che devi avere tutto, devi avere. E beh, comunque, costa 65 euro. Aggiornato per 3 anni, a voglia. Vabbè, il 3 anni c'è quelle. E poi, altre 65. No, praticamente tu lo paghi 65 euro per mettere in 3 computer, no? Oppure magari, io ne so, no, te lo divido con qualcuno che lo vuole. A testa e lo paghi molto molto meno e poi ti si aggiorna per 3 anni. Ah, ho capito, ti dà tutti gli aggiornamenti della canzone. No, del programma, il canzone non c'entrava niente, il canzone te devi procurare. Guardi se abbia il culo. La signorina Costanza, se lo devo vedere, fa qualche serata, dico, se mi dà un po' di basi in MP3, così te le giro. Tutto nei bigli. Se mi dai un computer con Zap, infatti quello come gliele ho prese, quello che ho dato a te, gliele ho prese da computer, infatti qua c'è una cartella, mi aspetta. Allora, basi credo che MP3, contatto Sannami. Vabbè, quindi anni 60, anni 70, poi c'è balli di gruppo, canzoni bambini, canzoni sassaresi miste, Capodanno Dance, Leo per scritti nuovi, cartella, canzoni sassaresi, c'è abite. Vabbè, adesso canzoni, no, non so se sono MP3, c'è abite, aspetta. Vediamo cosa fare. Gaia su conto. Ah, se ci riesco mi faccio una cosa tutta completa, ma fa culo. Almeno ho tutti i brani, ho tutte le basi. Si chiama quello là, l'altro programma, Virtual DJ. Lo conosci? No. Quello che usa Costantino. È Virtual DJ? Sì, ho visto che fa anche bar di karaoke qua. Controllo, sì. Approverci, c'è più. Allora, Virtual DJ? Allora, Virtual DJ, software DJ più popolare. Non l'ho mai usato, c'è, vedi? Facendo cocco. Prendi il cocco, lo sai tu cocco? Lo sai che la vita di mole fa fare il cocco, già lo sai anche tu. Ah, tu non ti vieni a dire. Cosa fa il cocco? No, il cocco ho fatto, non il cocco. Hai capito? Quando bevi la vita di mole, con la Radler, ma direttamente in mano. Ho fatto quello. Si chiama Redler, si legge Radler, ma si pronuncia Redler. Vabbè, quello che vuoi, comunque sia, è acqua mineraria, lo sai anche tu, col limone, e ti fa la pulizia allora nel coso intestinale e fa bene. Ma quello non fa impennare il coso, manca giù però. Vabbè, fu per il pisello non ti preoccupare, già c'è il coso. Ci mancherebbe. Che sono che è stato qui, no? Già lo sai, giallo, a questo punto. Sei stato a mungere? A mungere no, ma a fare ciucciù sì, a un certo punto, ma... Cazzo di auro! Che ti fa ciucciù? Allora, cazzo, fa bene con la conquera, non abbia la dimora la verità, Credo che è tutto dall'intestino, se c'hai qualche cosa intestinale te la togli tutta, fa veramente bene. Grazie a Dio non soffro di... Cazzo, e già oggi ho sentito 5 persone tutte cazzo malate cazzo di virus intestinale, la verità, tutte 5 persone dal medico dove sono andato io, perché non accetta per Simona, cioè non per Simona, per mia sorella. Cazzo, una cosa allucinante, cazzo. Ma tutti i cazzo virus intestinali che hanno cazzo a un certo punto. Un litro di uga. Guarda, io la vita virus intestinale non l'ho sofferta per niente. Quando mi figlio con la birra di limone, è perfetta, guarda, c'è limone, c'è il coso, c'è neanche un 1% di coso, di grado di alcol, quindi sembra che sto bevendo limonata. Invece avevi mi altro lo scaricato. Beh, com'è? Non lo so. Cosa c'è la pagamento, Costantino? Questo non lo so, l'ultimo bombe di roba o quello. Boh, non so come cacchio, ma cazzo si fa, boh. Allora, c'è la terra, ha disconnesso, e ma devo connettere. Vediamo un po'. Filtri, elenco, consigli, esplorazioni, no. Musica locale, vediamo. Musica, desktop, senza nome, vediamo. Lascia vedere, zitto. Un cazzo non si intende no. Vabbè, non ti male. Aspetta un attimino, Questa è la manetta, così. Vabbè, non va. Ah, questo qua, vediamo. Ah, ecco, sì. Stai andando. Beh, aspetta. L'avevo registrata. Tu sei il cantante. Sì, l'avevo registrata con quel il canto, sì. Però aspetta un attimino, allora, computer, documenti. Esce a vedere. Esce a vedere a me. Ecco qua, a me. Sì, funziona tu. Aspetta. No, aspetta. Vabbè, non l'ho mai usato, Guarda, la squadra è per tutti, ci metti così, l'MP3, te lo vado a andare, compreso, ci metti l'MP3 e funziona. Qualcosa di strano ha fatto il suo pinguino. Cioè, perché io lo vedo che usa sia per il karaoke sia per fare un altro tipo di musica. Capito? A proposito, adesso mi devo installare la console, mi devo installare. Ho già mezzo capito come si fa. Aspetta. Adesso vedi? Ah, ecco. E queste qua te le carichi qua, eccole qua. Sì, guarda. Vediamo un po'. Non so come si fa a mandare avanti, boh. E vado per studiare, tu. non è facile, eh. Io la vostra chiusura già passi. Beh ragazzo, io mi gioco strumenti. Buonanotte a tutti, che ragazzi ho fatto. Buonanotte a tutti, ci risentiamo, ciao ciao. Tanto buonanotte, saluta Sara, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Cazzo, beh, non ha avuto un problema stanotte, non ha avuto un problema. Secondo me se non c'è giusta alimentazione soffre questa cosa. Ok, buonanotte, ciao ciao. Ciao, ciao Pompo, dai, chiudo pure io già tardi. Ciao, a domani Antonè. Buonanotte. E io, ciao, domani. Il software che mi cavo sul cervello.